America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York, Mario Platero. Let's get ready. Beh, avete sentito, questo è il tipico ritornello allegro, aggressivo, così a incitare l'agonismo sportivo di una partita di pallacanestro. Avete sentito la presentazione, atmosfera sempre carica di entusiasmo, di energia. Ebbene, oggi il mondo del basket, ma il mondo dello sport in genere, sta riflettendo profondamente su quello che è stato un gravissimo episodio di razzismo. Why should you be walking properly with black people? La storia forse la conoscete. Donald Sterling, il proprietario dei Clippers, squadra di Los Angeles, parlando con la sua fidanzata V. Stiviano al telefono, ha cominciato a fare invettive razziste e dice: mi disturba parecchio che tu debba pubblicizzare le tue relazioni con persone di colore, ma devi proprio farlo? Per quanto mi riguarda, puoi anche andarci a letto, puoi fare quello che vuoi, ma non lo pubblicizzare su Instagram e non portarli alle mie partite. Ecco, Sterling ha fatto queste dichiarazioni senza sapere che fossero registrate. Tra l'altro ha, diciamo, un passato molto sospetto. Già nel 2006 aveva patteggiato una multa da 2,73 milioni di dollari per aver attaccato neri e latinoamericani. Diceva: io non riaffitterò mai i miei appartamenti. La storia ovviamente ha colpito l'immaginario collettivo americano, e proprio ieri nel tardo pomeriggio ecco la sentenza della Lega Basket Americana, la leggendaria NBA. The views expressed by Mr. Sterling are deeply offensive. E Adam Silver, che parla, il commissario della Lega Professionisti del basket, durissimo, perché dice: la visione espressa da Donald Sterling è profondamente offensiva e dannosa per una Lega multiculturale come la nostra. Per questo l'NBA lo bandirà a vita dalla Lega e dai Clippers e lo obbliga a pagare una multa di 2,5 milioni di dollari, la cifra massima che possiamo imporre. Dunque, sospensione a vita, una multa e anche la richiesta al consiglio di amministrazione di vendere la squadra. Tra l'altro David Geffen, magnate della musica americana, si è fatto sotto e ha detto di essere pronto ad acquistare la squadra. Questo per dire che cosa? Che in America la scure contro il razzismo sportivo, il razzismo in genere, si abbatte davvero inesorabilmente. Questa decisione è una di quelle decisioni che fa storia per lo sport, per il messaggio di condanna contro il razzismo sportivo, per i provvedimenti durissimi di cui vi ho parlato, e perché questa decisione ha fatto poi il giro del mondo. Pensate, ha raggiunto persino il presidente Obama quando era in viaggio in Malesia. Gli è stato chiesto quale fosse la sua reazione e la risposta chiarissima, orrenda: si dovranno prendere dei provvedimenti. Ma la notizia ha anche colpito altri ambienti sportivi, paesi dove manifestazioni di razzismo ci sono, in particolare da noi. Voglio dire, il nostro mondo del calcio è pervaso purtroppo da manifestazioni intollerabili, insomma, contro i neri, contro gli ebrei. Abbiamo visto striscioni, pensate a questi orrendi, orribili striscioni antisemiti. Ecco, il problema c'è, esiste, il messaggio dall'America è chiaro: tolleranza zero. Ne voglio parlare con Maurizio Beretta, presidente della Lega Calcio Serie A in Italia. Buongiorno Beretta. Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Eccoci. Allora, beh, intanto come reagisce? L'ha colpita questa notizia? Insomma, una reazione durissima dell'NBA. Certamente, e come dire, io credo esprima ed interpreti quello che è il vero sentimento, diciamo, dello sport, di tutto il mondo dello sport, che è un mondo da sempre, come dire, impegnato nell'inclusione, impegnato nel superamento di ogni barriera, quindi non può accettare o tollerare, come dire, fenomeni di razzismo. Però abbiamo visto che, nonostante siano stati presi dei provvedimenti, mi pare a livello di UEFA, della Lega Europea, queste manifestazioni a noi in Italia ci sono ancora. Lei cosa suggerisce per stroncarle? Ma il segnale forte ci deve essere, il segnale forte è quello di fare un salto di qualità nell'individuazione dei responsabili, piccoli gruppetti di gente, diciamo, che certamente non ha molto a che fare né con il calcio né con la grande maggioranza dei tifosi per bene, e andare a sanzionare in maniera molto molto pesante i soggetti che sono, come dire, gli autori di questi fenomeni, di queste manifestazioni inaccettabili, e invece abbandonando una logica legata alla cosiddetta responsabilità oggettiva, dove vengono chiamati a pagare per, ripeto, atteggiamenti intollerabili di gruppuscoli di esagitati, diciamo, vengono chiamati a pagare o grandi gruppi di tifosi o le società. Ecco, però non c'è stata generalizzazione da parte dell'NBA, che poi è l'equivalente, se vogliamo, della Lega Calcio per le squadre di basketball, e hanno punito duramente il proprietario in questo caso. Quindi è inevitabile che qualche aspetto coercitivo debba esserci. Visto che non si riesce a colmare questo gap, lei che cosa proporrebbe? Sarebbe d'accordo, per esempio, nell'introduzione di possibili punizioni ma anche incentivi, per esempio penalizzare la squadra con dei punti, e quindi questo sarebbe un incentivo per i tifosi buoni a identificare quelli cattivi, oppure a dare delle multe molto forti alla squadra, che a quel punto, piuttosto che pagare la multa, magari dà dei premi ai tifosi che identificano i responsabili. Ecco, quale di queste due ipotesi lei proporrebbe? No, io penso, ripeto, che siano, diciamo, palliativi e strumenti che non sono destinati a funzionare. Lei giustamente citava l'esempio americano, ma qui è stato pesantemente sanzionato, come dire, l'autore di quelle frasi, diciamo, e la persona che si è resa, diciamo, responsabile di quelle dichiarazioni. Noi dobbiamo andare su quella strada. Oggi, come dire, negli impianti sportivi più moderni non è impossibile andare ad identificare, come dire, il singolo responsabile. Ogni logica che pone a carico di soggetti diversi da quelli che si macchiano di questi comportamenti inaccettabili, in realtà da un lato copre questi personaggi e dall'altra addirittura, come dire, fornisce loro uno strumento di condizionamento e di ricatto nei confronti della società e degli altri tifosi, no? Proprio l'esempio che lei faceva dell'ipotesi di dare punti di penalizzazione è esattamente questo. Io sono in grado, con una manifestazione che tu non sei nelle condizioni di poter né prevedere né prevenire, perché non è che si può fare, come dire, l'ispezione all'ugola, no? Mentre quando uno entra nello stadio, sono in grado di provocarti dei danni molto importanti. Benedetta, lei però dice, certo, abbiamo adesso mezzi tecnologici per identificare i colpevoli nella folla, è meglio non penalizzare la totalità dei tifosi o le squadre, però la verità è che questi continuano a colpire. E dunque, come troviamo una via di uscita per far sì che, come è successo in America, i colpevoli di queste manifestazioni razziste vengano colpiti e puniti? La strada, ripeto, è quella di individuare con gli strumenti adeguati che la tecnologia ci mette a disposizione i singoli responsabili di singoli episodi inaccettabili. Nella consapevolezza che queste persone creano danno a tutta l'immagine dello sport e alle società di cui dicono di essere tifosi, questi soggetti, ripeto, vanno una volta individuati, perseguiti con grande determinazione. Io penso che una volta accertate responsabilità come queste, appunto, di fenomeni, di manifestazioni razziste, debbano essere banditi da tutti gli stadi di un paese o di un continente, penso appunto alla dimensione europea, per un periodo molto lungo, penso una decina d'anni. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili ma resta pur sempre la nuova frontiera. Seguiteci su Mario24.com, su Twitter, @MarioPlatero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Abbiamo avuto ieri le nomination per i Tony Awards, che sono poi gli Oscar per Broadway, per i musical, per le piste teatrali. E lo spettacolo che ha avuto il maggior numero di nomination è stato Beautiful, dedicato a Carole King, grandissima cantante americana, ha avuto ben 9 nomination. E dunque a Carole King, una delle mie cantanti favorite, dedico la canzone del giorno, It's Too Late, Baby. It used to be so easy living here with you. You were light and breezy and I knew just what to do. Now you look so unhappy and I feel like a fool. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going. America 24.